Che ne dici? Autoambulanze fuori. Autoambulanze passano fuori. Proprio. E vabbè, Napoli. A fiotti. Però vabbè, usciamo bene in video. Piovono autoambulanze. Siamo in ritardo comunque. Basta. Ma ci stiamo preparando. Le donne. Ma vorresti, più donne di me. Ma fammi, perché mi siete applicati un sacco. Ma fammi capire, vorresti specchio. Fare in video la presentazione? No, volevo cercare di. Ma mo la fai invece. La devo fare? Sì, mettiti un posa come con le donne, direi uno vecchio stile. No, soprattutto mettiti più avanti perché così nessuno ti vede. Mamma mia. Prego, mettiti al mio posto. Noi ce ne andiamo. Noi ce ne andiamo. Tu fai. Mi vedete? Sì, fai quello che devi fare. Fai quello che devi fare. Ciao. Ciao. Ok. Va ora in onda Mi sta stretto lo stivale. Di Cremona Strazzullo dirige il maestro Corrado Parisi. Bravo. Ah, 10 10 10 10 10 20 20 10. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, no, da Riccardo Cremona. Di dire buonasera. Buonasera, giustamente. Buonasera. Siamo in diretta 29, 9 no, di sera. 20, le 9. Le 21. Le 21 più da Riccardo 20. Cremona. Alessio Strazzullo. Beh, buonasera a tutti. Quindicesima puntata di Mi sta stretto lo stivale, la seconda live dal vivo audio e video. Abbiamo fatto una porca figura la prima mamma volta, mia, direi smettila di guardarti. Va là che ciuffo, va là che hai ciuffo. Hai dei capelli un po' strani. Ma sì, un po'. Sono un po' strani, sono a fungo. Sì, me l'hanno detto per tutta la vita, insieme al fatto sei vecchio, sei donna. Se sei donna, mi sa che. Sono un vecchio 50, fungo donna. 50% questo. È mio. Sì, vabbè, ma. Figurati, sei l'ultimo. A proposito di donne vecchie, oggi è il compleanno di Rita Levi di Montalcini. Ma non auguri. So se, auguri, 101 anni. 115 proprio. No, 101. 201. Si riporta bene, però si riporta molto bene. Auguri e complimenti a Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, ricordiamolo. 60 non è che anni fa, però sì, vabbè. Sempre un Nobel. Ho capito, è un Nobel, tu atteggiati, dimmi come giusto. Atteggiare, cioè. Allora, salutiamo la nostra chat subito. A proposito, salutiamo tutti che i ci nostri stanno ascoltatori, che un grandi, bacio che a tutti. Grandi. Leggo qui Na, grandi Nando, ascoltatori. Mitico Nando. Ma chi sarà mai Nando? Noi la conosciamo questo Nando. Nando ci manchi un sacco. Allora, cominciamo con un attimo di serietà. Come ben sapete, in settimana è morto un pilastro della nostra televisione italiana, Raimondo Vianello, che avrebbe compiuto 88 anni a maggio. Neppure tanti. E quindi 30 secondi per lui sono doverosi. Prego, DJ. Niente applauso? Niente applauso. Silenzio. Va bene, 30 secondi, eccolo qua, l'applauso è arrivato. No, è che abbiamo un pubblico un po' difficile stasera, non riescono a capire bene quello che dici. Allora, bravo. Dici applauso, il pubblico sta là, le mani. E non applaude, però comunque però, ricordiamo Raimondo, un bacio, saluto. È il bello della diretta, il bello e il brutto della diretta. Salutiamo il nostro mitico DJ Corrado Parisi, come stai Corrado? Buonasera! L'ho visto un po' spento, forse perché la diretta lo occupa troppo. Sì, un po'. Lo occupa troppo, infatti lo vedo molto indaffarato qui. Partiamo subito. La notizia clou della settimana che ha bloccato l'Europa, il mondo intero. Prego, vai. Allora, sai benissimo che questo vulcano Eija Falla Jokull. Io te lo farei leggere, scusa, ripeti? Eija Falla Jokull. Bravo, bravissimo. Parla cool islandese. Si capisce benissimo. Cool. Vabbè, certo. È... ha detto cool. Vabbè, comunque, questo vulcano che è stato fermo per non so quanti anni. Forse vulcano islandese inattivo da parecchio. Forse 200. Sì. All'improvviso ha detto tu. Ma fammi un po' ricordare. Fammi esplodere. Si è ricordato di essere un vulcano. Un vulcano, in quanto vulcano attivo. E ha deciso di gettare un po' di scompiglio. Quindi ha sparato nel cielo, ma proprio nel cielo. Non il cielo. Il cielo. Il cielo, parliamo il di. Cielo o il cielo? Stratosfera, queste cose qua. Queste sì. cose qua. Per cui. Ci sono stati un po' delle di conseguenze, ma il mondo le si conseguenze è bloccato. Serie. L'ultima notizia è che le compagnie aeree, ricordiamo che gli aerei non possono volare perché, sai, i motori degli aerei, no? Sì. Sono un po'. Ma tu un po' intendi? Così. Non mi intendo di eliche. Però so che quando, per esempio, entra un gabbiano nell'elica madre di un aereo. Un gabbiano non vola più. L'aereo cade. Ok. Sì. Allora vabbè, il problema era un problema di visibilità, perché si sono alzate queste ceneri. Sono. Che hanno bloccato. E sono un po' preoccupati. Perché dicono: qua le ceneri vanno nel motore. Cadiamo. È pericolosissimo. Quindi hanno bloccato i voli. L'aereo dicono che sia il mezzo più sicuro sul pianeta. Però quando l'aereo cade, sei morto. Statisticamente è il mezzo di trasporto più sicuro. Però diciamo che una volta che cade è andata. Solo gli americani riescono a parcheggiare gli aerei sui fiumi. Come il Potomac. Non so se ti ricordi a Washington. No, non mi ricordo. Quell'aereo che stava atterrando per un atterraggio di emergenza. E sono planati lentamente su un lago. Pensa se la facciamo qua sul Po. Sì, ma anche nel lago d'Averno, per esempio, come è stato abbastanza divertente. Comunque, l'ultima notizia importante è che le compagnie aeree hanno detto: voi ci dovete dei soldi. Chi voi? Vulcano. Vulcano. Voi che state bloccando il traffico aereo dicendoci che non possiamo far volare gli aerei. Sì. Lo state facendo su supposizioni. E su controlli, diciamo, teorici. Allora rischiamo allora. Sì. Allora rischiamo. Tanto che sono un aereo con circa 500 persone a bordo. Tanto i gommoni di salvataggio nell'aereo ci sono. Male che vada. Tanto cadiamo solo a 5 metri di altezza. Certo. Cioè a 5.000 metri di altezza. Se sei sulle Alpi di un gommone te ne fai poco. Anche se chi ha visto i film di Cliffhanger, quel film di Steve o anche di Indiana Jones, si può planare anche su un gommone. È vero, è vero. Vabbè, comunque è una cazzata stratosferica. Cioè. È una previsione, però è per la sicurezza. Non è che dice, vabbè, è una previsione, proviamo, vediamo che succede. Io sabato devo prendere un aereo e un po' sotto me la faccio. Tu sarai il tester, noi ti chiamiamo. Noi ti chiamiamo. Facciamo una diretta dall'aereo e vi dico, ragazzi, tutto a posto qui. Un attimo dopo, ragazzi, vi amo tutti. Arrivederci. E giù in picchiata. E noi faremo anche per te il minuto, minuto di silenzio. E quindi saresti felicissimo. Sono molto contento. Allora, che è successo? Sempre collegato alla storia delle ceneri, no? Sì. Come si è capito, si è bloccato il traffico aereo europeo. Sì. Con le conseguenze che tu puoi pensare, gente bloccata ogni dove d'Europa. E c'è un caso molto particolare, il caso di 10 sciatori milanesi che si erano ritrovati nell'Artico, andando a fare una bella settimana bianca nel circolo polare artico. È giusto, ci sono tante cose, sì, le renne. Ho capito, tu sei di Milano, sei un passo dalle Alpi, vai lì. Non andare nel circolo polare artico. Circolo polare. Sono andati in particolare Lingen. Sono andati lì e sono rimasti bloccati. Avevano l'urgenza di tornare a casa per le proprie famiglie, per tornare a casa, lavoro, famiglia e cose varie. E cosa hanno pensato questi geni? Affittiamo la macchina, usiamo i treni. No, prendiamo un taxi. Ma è furba come idea, no? No, è di livello però, Hanno preso un taxi che è partito da Tromso e si è fatto 4.000 km fino a Milano. È buono. Con la modica spesa di 14.000 euro. È poco. Tu considera questo. Avranno fatto una colletta, dai. Tu considera questo camioncino taxi con tre autisti che si davano il cambio. Perché giustamente 4.000 km sono 4.000 km. E tu arrivi a Milano, grazie, quante le devo? A parte c'è il tassametro ormai che è praticamente morto. Sono appena 14.000 euro, grazie. Ah, non c'ha il resto? No, non fa niente, no, scenda qua, di qua. Ma io mi chiedo, ma affittare un'auto? Con 14.000 euro di affittare un aereo che poi non potevi volare. Non però... potevi volare perché i falluci però l'avevi affittato. E tu considera che questi 14.000 euro in taxi, quanto deve essere lungo un viaggio in taxi? Mamma mia, mamma. Terribile. Bravi, complimenti a questi sciatori milanesi che decidono di sciare al circo polare artico. Bella scelta e anche per il tassì. Complimenti. Bravi. I milanesi hanno sempre delle ottime idee. Sì, sono intelligenti, sì. Sono capitalisti. Più gli interisti, secondo me. Però... Non parliamo dell'Inter. Ne parleremo. Ah, ne parleremo. Il mio pupillo scaletta... ha fatto l'ennesima cazzata. In scaletta vabbè, ne parleremo. Il pupillo ha fatto la cazzata. Continuando sul filone vulcani, sì, aerei che non partono, ceneri. C'è un cretino. sì, un cretino. Letto. Ovviamente è invitato in trasmissione questo il signor cretino, Paolo Hernani. Come si dice? Vieni avanti, cretino. Assolutamente. Citazione. No, questo meteorologo che ha detto, ve la leggo perché non saprei riportarla qui così. Sì. Allora, ha detto, dopo aver fatto una serie di studi teorici, ovviamente. Ha detto, il problema è di carattere generale, se le emissioni di ceneri dovesse continuare per durare parecchi giorni, si potrebbe creare con i venti d'alta quota un sottilissimo strato di particelle sull'emisfero settentrionale, Nel 1883 l'esplosione del vulcano Krakatoa. Famosissimo, Krakatoa. Krakatoa. Emise nell'atmosfera miliardi di tonnellate di pulviscolo e di fumi. E l'anno dopo la temperatura scese di mezzo grado. Quindi lui, apocalittico, è stato una... Dice in pratica, potete tirare fuori i giubbini invernali perché quest'estate il mare... Ve lo fottete. Il 15 agosto tutti quanti con il bambut ai piedi, sulla spiaggia. Questo è un cretino. È un cretino. È un cretino, non lo so. Secondo me crede. Secondo me questo è uno di quelli che crede che il 2012 finisce la terra e il mondo. No, è più che altro una persona che ha voluto dire la sua ed è stato smentito subito da uno serio. Da Max Planck. Sì. Che già ha un nome più serio di Paolo Hernani. Mi sembra giusto. Mi sembra scusatemi. Che dice di Amburgo lui, quindi anche uno più serio, cioè, Amburgo. Diciamo, Amburgo. Amburgo si fa una cosa. Mai dire che qualcosa contro Amburgo. Mai. Poi ci invadono. Che afferma la nube di cenere non avrà un grande effetto né sull'atmosfera né sul clima. Insomma, Paolo hai detto una cazzata. Hai detto una stronzata. Torna a fare lo scienziato. L'hai detta così. Torna a fare gli esperimenti col bicarbonato e il limone e non scocciare nessuno. Con la Coca-Cola e l'Elementos. Ci divertiamo smettila. Tutti quanti. Non ne possiamo più. Basta, hai detto basta. Una stronzata, basta, non creiamo basta, panico. Già non riusciamo a volare quasi perché... Attenzione che qualcuno mi ha scritto, digli a Rich, ripigliate. Ripigliate. Alla romana. Alla romana, ma sarà un romano. Sto, normale. Cioè sarà un romano. Se sei un romano, dici se sei della Roma o della Lazio. Ah, questo del derby, dopo ne parleremo. Abbiamo qualcosa da dire. Allora, non ci risponderà mai. Non ci risponderà mai. Intanto salutiamo anche Jenny che si è appena connesso. Un saluto a Jenny che si è appena connesso. Allora, io ho una notizia bellissima. Allora, è importante perché parliamo della la grande industria italiana, quella su cui l'Italia si è fondata. Sì. La Fiat. La Fiat. Già mi viene da ridere, non dico Fiat perché certe macchine sono inguardate. Con la mia Bravo arriviamo quasi a 200.000 km. Io ho la punto, quindi mancano 6.000. Siamo due fiattisti, però ricordiamo macchine d'eccellenza come la Duna. Mitica creazione. Che è successo? Luca Cordero di Montezemolo, che era il presidente, che aveva preso le redini perché la Fiat stava andando a puttana, a scatafascio, diciamo così. Forse era meglio scatafascio per dire, poi dopo puttane, va bene. No, quello che va a puttana è l'Apo. Sì, che fa parte della famiglia, però. Sì, questa è cattiva, però. No, non è cattiva. Invitiamo l'Apo o le puttane. L'Apo, tutte e due. L'Apo se vuoi venire... o va a puttane o va a bloccare palle. Sì, all'NBA, perché lui è così. E proprio perché lui non è quello sano. Progetta occhiali. Sì, sì. Occhiali che per lui sono dei concetti. Sì, non sì. Sono degli occhiali. Lui fa un occhiale che è un concetto filosofico. Un concetto filosofico. Ho creato uno zaino che è l'idea rivoluzionaria del futuro. Uno perché... zaino che fa anche da occhiale. Perché c'è. Uno zaino con tre bretelle. Perché? Perché così tu ma comunque è un cretino. La che via succede? Di mezzo. Allora lui è bravo, la via di mezzo. Perché lui è esperto di via di mezzo. Sì, diciamo abbastanza così. Diciamo e comunque lui non è quello sano. Fusione. Allora lui sappiamo che non è quello sano della famiglia Agnelli. La poerca non è quello sano. No. E quindi invece quello sano, quello sano, perché ne abbiamo uno, John Elkann, ha preso il posto di Luca Cordero di Montezemolo. Sì. Alla presidenza della Fiat. Lui è molto felice, si dichiara molto felice. È orgoglioso di aver preso il posto. E ci mancherebbe altro. E poi dall'altro lui dice: anche la mia fiducia per la famiglia. Caro John, tra te e il tuo fratello rincoglionito, senza offesa, ma cioè, quello va dove va, diciamo così, la via di mezzo. Va. Progetta zainetti che diventano occhiali. E va a fare figure di merda anche negli States. Senza offesa, hanno scelto te perché eri l'unico rimasto sano. Sì, ma l'unico soprattutto è quando guarda in una telecamera non fa chiaramente così. Quindi, no. Rifalo. No, basta. Gli Agnelli sono potenti. Sì. Sparano un colpo in testa prima di salire a casa. Adesso. Vabbè, però gli Agnelli. Secondo me l'Apo ci è rimasto malissimo. Perché lui ci teneva a fare sempre l'immagine di essere l'erede del nonno, sai? Il tromberdo firm di qua e di là. Però diciamo che ha sbagliato in alcune cose. In alcune cose. Diciamo l'eleganza. Ha fatto delle scelte differenti. Diciamo differenti. Si è chinato al mondo moderno. E il mondo moderno si è chinato verso di però, lui. Però. Insomma, basta così. Non continuiamo a. Vabbè, io sono felice che lui non sarà più presidente della Fiat. Immagina, a martellare sul povero. Sul povero Lapo. Ma immagina che Lapo. Macchina avrebbe creato Lapo. Sì. Macchine che diventano zainetti e che diventano macchine occhiali. Spaziali. Macchine con occhiali e zainetti. Bravo, macchine concetto che vanno a ego. Macchine concetto che vanno a ego. Lui sta lì e fa: io sono la poerca. La macchina cammina. La macchina concetto è una gran bella idea. Consigliamo, se vuole venire la poerca. Salutiamo l'intera famiglia Teta. Complimenti da mia madre e mia sorella. Dice Nando, grazie mille. Salutiamo la famiglia Teta che è benvenuta. La invitiamo anche loro in studio. Ma sì, vengono tutti. Ma sì. Però loro più che volentieri che a posto di Lapo. Se viene Lapo qua è finita. No, Lapo qua farebbe fa un macello. Danni. Comincerebbe a bloccarci e mettersi davanti al microfono. Si mette qua a fare. No, non è il caso. Non è il caso. Meglio la famiglia te. Intanto qui, guarda, qui è uscito On Air. Non so se noti. Vedi, no, qua. È molto carino, molto qua. Carino. Qua, no, sì, là, vedi. Sei bravo, però sei bravo. Ma c'è un filo di ritardo, vedi. Così guardo l'On Air. Bello, bellissimo. Dai, bello. Andiamo avanti. Dimmi questa notizia. Questa notizia è per il mondo femminile. Ah, ma tocca a me. Ah, donne frigide. Donne, ragazze. Donne frigide. Mogli, allora, vedove. Se sei donna... Sì, quindi se ciò ti riguarda. No, io non proprio, se sei veramente donna, tipo una delle nostre collaboratrici, eccole come qua. Antonella Pullì. Potreste girare e parliamo di voi. O Eleonora Minucci. Che sono o qui. Eleonora Minucci. Anzi, io Antonella la farei venire proprio qua. Così Antonella, parlo vieni, di questa cosa. Vieni, è l'argomento che ti riguarda. Vieni. Antonella ama venire in video, quindi... Cioè, sì, quindi sobria, mi raccomando, prego. Vieni qui, ecco, è alta, Antonella. Quindi può mettersi tranquillamente sì, qui. Sì, come me, che nah. Riesce a vederti qua. La bionda non è Alessio, ma è Antonella. No, bene Antonella, allora... La notizia. Tu sai cos'è il Viagra? Sì. Che cos'è che ne sai? No, che ne sai? No, vieni vicino al microfono. Che cos'è il Viagra? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Che cos'è il Viagra? Sono solo in 12 a seguirci, non è niente di che. Vieni. Abbiamo messo anche le cuffie. Che cos'è il Viagra? È un farmaco per aiutare gli uomini nelle loro disfunzioni erettili. È bravissima. Brava. Molto bene. Disfunzioni tu erettili. Hai mai avuto bisogno di ricorrere a questi mezzucci con no. il tuo partner? Hai mai no. mischiato la Coca-Cola o questo Viagra in modo tale che lui non venisse colpito nell'ego? Dicci la verità. No. Amore, tieni, questa è una Ziguli e poi lui alle 12. È un peccato perché avremmo potuto fare dei nomi divertenti di nostri amici, ma lasciamo perdere, andiamo avanti. Dopo andiamo fuori avanti. Onda magari. Dopo fuori onda magari ci dici qualcosa. Molto bene, allora... Questo riguarda più te. Tu sei una donna. Sì. Bene. Così dicono. Chi? Le donne non possono avere disfunzioni erettili. A meno che... No, non sei come l'Apo. A meno che non sei come l'Apo, quindi è probabile che tu possa incontrare qualche donna con disfunzioni erettili. Lo sai che è nata una pillola? Non blu come il Viagra. Viagra rosa, non a caso rosa, perché i si maschi, il rosa è delle femminucce, il blu è dei maschietti e il verde per i trans, che dovrebbe risolvere il problema della frigidità femminile, diciamo delle donne mancanza frigide che non raggiungono sessuale. L'orgasmo, l'amplesso, capito? Un po' di pepe in più. Esatto, un po' di pepe in più che le aiutano a raggiungere l'orgasmo. No, che aiutano nell'eccitazione sessuale. Diciamo, penso che l'antimal di testa. Per esempio, esatto. Una donna fa: no, c'ho mal di testa, non mi va. E tu gli fili una pillola nella Coca-Cola. Ci prendi questa, cara, per il mal prendi di testa. Esatto, prendi questa per la spirina. E invece sta con un mandrillo in giro per casa. Gli esatto. salta addosso al marito. Esatto. Tu cosa ne pensi? Potresti mai usarla? Magari occhio dopo a la menopausa. Perché se da un lato dici non ne ho bisogno, passi un po' per una infoiata. Se dici che ne hai bisogno, notizie passi tecniche. Per la frigida, quindi dipende. Notizie tecniche. Si chiama tipo come un vecchio sottomarino tedesco, UK414,495. Bello, bel nome, complimenti alla casa farmaceutica. Certo. Perché Viagra è una cosa. Perché Viagra è una cosa. Intanto ci fanno gli scherzi. Ci fanno degli scherzi divertenti, tipo leccare i monitor dei nostri cellulari. Salutiamo Loris, non so se ci sta seguendo, ma è uno scherzo suo questo. Una sua invenzione. E in ogni caso si chiama, abbiamo detto, come un vecchio sottomarino russo, probabilmente, o tedesco. E tecnicamente... Che il fa? Dottor Pfizer. Come si chiama? Dottor Pfizer. Non sputare. Dice che una volta che viene attivata è in grado di stimolare il nervo pelvico. Suppongo si trovi nella zona pelvica. Qui comunque. No, qui in questa zona. Nella zona pelvica. Nella zona pelvica. E aumentando l'afflusso di sangue verso i genitali femminili, che sono notoriamente... Che stai dicendo? Scusami Alessio. Nella zona pelvica, bravissima. Siamo là, cioè non è che dobbiamo circunnavigare l'Africa. La grande. Quindi, amiche frigide, se volete ritornare ad essere, diciamo così, Non frigide. Prendete questa pillola, passa la paura. Andate in farmacia, trovare la pillola, quella là col nome del sottomarino russo. Grazie Antonella, puoi andare a fare anche culo, andare. Complimenti, ciao. Abbiamo sempre un posto per te. Attenzione ai fili, che qua siamo pieni di fili. Antonella, biondissima, bellissima, radiofonica e telegenica. Sì, ciao Antonella, alla prossima volta. Saluta come una... un allora, idiota. Questa notizia... Però è nostra amica, le vogliamo bene. Sì, le vogliamo bene, ma quello... Cioè, è l'amica, cioè non vuole bene. Cioè, gli amici speciali. Gli amici speciali, gli amici un po' speciali. Un amico un po' speciale. Allora, questa notizia è bellissima. Allora, parliamo di una grande... C'è il top, ragazzi, questa che volta. Che è successo? 15 persone che ci seguono. Qualcuno ha chiesto pure perché Antonella è lì. Pensa un po'. Allora, salutiamo John Locke, che ormai sappiamo che è il mio amico Giovanni. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Giovanni. Per seguire la nostra trasmissione, siamo molto contenti. Contentissimo. Nando ride. Perché gli applausi per Nando che ride? Il nostro DJ, diciamo che... E quindi andiamo avanti. Salutiamo anche Rossella, che mi ha scritto in privato perché un po' di intrallazzi. È la mia ragazza, quindi... Sì. Nessun intrallazzo. Ma quindi facciamo outing? Applausi. Stiamo facendo outing di questa coppia lesbo anche via web. Siamo eterosessuali entrambi. Ah, sì? Sì. Ah, e c'è anche l'applauso. Non che riguardi effettivamente qualcuno. Andiamo avanti. Tocca a me o tocca a te? A me, tocca a me. A te. Allora, nota casa automobilistica. Questa è la più bella. Sì, questa è la più bella. Tra le notizie del giorno. Nota casa automobilistica. Come si chiama? Americana. Toyota, sì. La Toyota, sì, perché Toyota Lexus, ah, okay. La Toyota Lexus, che succede? Hanno dovuto ritirare dal mercato il modello di Toyota Lexus GX463, sì, sì. 460. Già rido perché è una cosa che mi fa abbastanza Il ridere. Motivo è perché presenterebbe un altissimo rischio di ribaltarsi. Ok, è un buon motivo, tra l'altro ne stanno bloccando da un bel po', Cioè, tu immagina. Ogni tanto, io la mattina mi sveglio, apro Google Reader, vedo le ultime notizie dal mondo... E ogni tanto, più o meno ogni 6 mesi, dicono Toyota ha ritirato un modello, rischio esplosione, per esempio. Cioè, a parte che sono veramente gli ingegneri pezzotti questi della Toyota, non ha qualsiasi problema. Però tu hai presente sulle sigarette c'è scritto attenzione, il fumo potrebbe uccidere. Sì. Tu immagina sopra la macchina, attenzione, potrebbe ribaltarsi. Ma ti immagina quello, entra, accende la macchina, puh, e si gira la macchina. Mamma cioè, mia. Peggio dalla Duna, neanche la Duna era così. Cioè, io veramente, siamo arrivati. Immagina incredibile una macchina, sì, la curva. Come entra in curva, schizza in aria, prende il volo proprio. Perché non l'avevo ritirata in tempo. Ma come si fa? Ma voi studiate una vita per fare le auto, le mettete nelle gallerie del vento, nelle gallerie dell'acqua, nelle gallerie del mercurio. No, non è vero, cioè stai esagerando, clamorosamente. Inventando spudoratamente. Ma tu immagina una cosa del genere, cioè uno si compra una macchina, poi si accorge, ho comprato una Lexus, bellissima. Si ribalta un casino. Oh, bellissima, è troppo bella. Oh, ma hai sentito che si ribalta? E infatti, è bellissima! Però lui, bravi, complimenti alla Lexus, ci vorrebbe un applauso. In compenso hanno detto che gli airbag funzionano benissimo. Certo, però. Non è ribaltato. Quindi una volta ribaltato, l'airbag attutisce abbastanza. Se volete la Lexus ribaltone, qualcuno ci consiglia che si chiami così. Se volete provare l'ebbrezza del ribalto, mi hai visto quei video su internet, anche in televisione, tipo Real TV? Sì. Le macchine che girano all'infinito, quelle sono tutte Lexus. Signori, attenzione, 21 visitatori. 21 visitatori. E 21, tra l'altro, come l'articolo della Costituzione, la libertà di comunicazione. Quindi perfetto. Mamma mia, grazie. Liberi di dire tutto. Grazie. Dici qualcosa di libertà. Dici grazie. Qualcosa. Viva la libertà. Viva la libertà di espressione. Viva internet. Viva questi nuovi mezzi di comunicazione che ci permettono di far arrivare la nostra voce nel mondo. Anche viva la vagina, io direi. No, non esageriamo. Allora, questa notizia è bella. A proposito di non vagine, a proposito di persone deficienti. Sì. Parliamo di un figlio, un figlio d'arte. Sì, del principe. Il delfino. Il delfino, detto la trota dell'Umberto Bossi. Uno stronzo enorme, ma assoluto. Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi, che a un'intervista, sappiamo tutti che l'11 giugno parte. Ah, attenzione, c'è un ospite d'eccezione, Harry B. Good. Che immagino sia il notissimo Enrico Buono. Lo salutiamo. E dice che il momento in cui Antonella Polli è stata mandata a fare in culo in diretta è stato un momento altissimo. Grazie. Se volete rimaniamo ancora a fanculo quando volete. Voi sì, apriamo un sondaggio. Siete 21 persone. Chi vuole che mandiamo a fanculo Antonella Polli, prego scrivete. Noi la manderemo senza problemi. Allora mandate un 5 euro. No, senza soldi. No, se mandate 5 euro io vi prometto la possibilità di poter mandare a fanculo Antonella Polli. In diretta. Venite qui, vi veniamo a prendere. Facciamo la fila. Tanto abbiamo Corrado Parisi che guida come un matto. Quindi problemi non ne abbiamo. Allora parlavo di Renzo Bossi. Intanto tu segui il sondaggio. Certo. Allora l'11 giugno cominciano i mondiali di calcio. I mondiali di calcio. Tutto il mondo. Noi siamo i campioni del mondo in carica. Campioni del cuore. No, del mondo. Di questa città. No, quella è una canzone terribile di Gigi D'Alessio. Ciao Gigi. E comunque L'11 giugno. Gianluca ci dice: mandate a fare in culo Bossi. Gianluca, l'hai appena fatto anche tu. Bravo. Quindi noi ti ringraziamo per aver dato un contributo. Ma tra un po' lo mandiamo a fanculo. Gianluca, non ti preoccupare. Stiamo parlando prima del figlio. Diciamo l'errore che ha fatto Bossi nella sua vita, cioè spargere il suo seme non intelligentissimo. Certo, però pensa pure come deve sentirsi. Hai capito Darwin? Bossi. Darwin a guardare il fatto dice che la specie migliora sempre, solo i migliori, e vedono che la specie di Bossi continua. Io sinceramente però cerco di mettermi anche nei panni del figlio di Bossi. Sì, perché cerco di farti capire. Comunque, per ogni ragazzo avere un padre è complicato. Sì, il rapporto se padre poi tuo padre è Bossi sono effettivamente... cazzi tuoi. Sì. Sono cazzi tuoi, diciamo che uno che ha creato seri problemi. E comunque che è successo? Lui, Renzo Bossi, ha in un'intervista dichiarato che lui non tiferà per la nazionale italiana. No. Perché lui dice che l'idea di Tricolore, questa è una stronzata enorme, ci vorrebbe sì. l'applauso. Attenzione DJ, alla fine della dichiarazione vorrei l'applauso. L'idea del tricolore è un sentimento ormai vecchio di troppi anni. No, non tifo l'Italia al mondiale in Sudafrica. Il tricolore identifica un sentimento di 50 anni fa. Applauso. Cioè, lui dice che il tricolore è vecchio. 50 anni. Allora, tuo padre deve morire perché ce ne avrà 80. No, ma, e quindi neanche lui potremmo più tifarlo, votarlo. Troppo vecchio, troppo vecchio, troppo vecchio. C'è un problema grave. Ma sai lui dice che cosa tifa? Tiferò la nazionale padana. Ma dai, ma la nazionale padana chi fate giocare? Chi fate giocare? Gioca Giovanni Brambilla che fa anche il ferramenta a Jesolo. Ferruccio 30 lance che farà, che ne so, il ferramenta Bergamo Alta. Sì. E Renzo Bossi l'allenatore, quindi questa squadra farà schifo senza dubbi. Senza dubbi. Io guarda, io non so più che dire sull'argomento Padania. Sono sicuro che molti dei nostri ascoltatori avrebbero tante cose da dire a Bossi. Io mi limito che un po'. Scrivono. Abbiamo già fatto gli auguri di Montalcini, non vi preoccupate. Va bene, allora voglio dire una cosa. Renzo Bossi. Sì. A parte che ti ha risposto il mitico Gigi Riva, ricordiamolo. Il mitico Gigi Riva ti ha risposto. Ha detto: questa è un'affermazione stupida e grave. E giustamente Gigi Riva non è un cretino. Se non sta bene in Italia, se ne può anche andare a fanculo. Un buon posto. Non ha scritto così, però esce bene. Nessuno ne farà una malattia. Questo è poco ma sicuro. Nessuno mancherà al mitico Renzo Bossi, che non vuole tifare Italia. Sinceramente sono felice, perché secondo me gufa un po', capito? Renzo Bossi, che c'entra? Sì, vabbè, perché non te ne vai? Cioè, se pensi che l'Italia sia antica, perché non te ne vai? Anche perché la Padania è Italia. Cioè, io vorrei farti ritirare patenti, carte d'identità. Ti voglio vedere camminare per l'Italia. No, dicendo no, ma l'Italia. Soprattutto ti voglio vedere a fare il bagno in qualche lago lì su. O nel Po, invece di venire al sud a farti bagni. Perché poi al sud ci vieni a farti bagni. Faccia di lurido. Io l'ho detto, l'ho detto. Io cerco di. No, io l'ho detto perché c'è. Va bene, ma andare a fare in culo Antonella. Però dire tante parolacce non è proprio il caso. Allora io voglio aprire una petizione. Sì. Facciamo ritirare patente, carta d'identità, attestato di nascita e qualunque cosa sì. burocratica italiana a Renzo Bossi. E la prossima notizia parla appunto di questo. Ah, è vero, la prossima notizia parla di questo, te la prendo subito. E mamma mia, grazie, grazie, grazie. Prego, ci facciamo anche i valletti a vicenda. Sì, sì, aspetta, guardo l'onair. Bello, bello. Ok, ok. Allora. Di che cosa parliamo? Parliamo di patenti. Pollo, parente e timbretto, ti ricordi Totò? No. Maronna santa. Non ricordo benissimo. Sei proprio una vergogna. Comunque. Che succede? Sono stati fatti nuovi esami per prendere la patente. Quindi, oltre alla prova pratica, la prova teorica, c'è anche un test da fare. Quale test? Ti droghi? Così. Fumi le canne? Così. Ti fai di cocaina? Cioè, non proprio così. Ti faranno dei test per scoprire se usi sostanze stupefacenti. Prima di prendere la patente. E quelli là che già l'hanno presa e li trovo in giro completamente. Vabbè, quelli ormai sono andati. Abbiamo perso. Sì, l'abbiamo perso. Cioè, quelli che fumano le sigarette spiritose. Però, effettivamente, tra un 25enne che si fa canne da una vita, però riesce comunque a guidare bene o male, non dico che sia giusto, però, e un 18enne che sta prendendo la patente completamente ubriaco, meglio comunque che sono abituato. E io comunque sono d'accordo. Il test della droga è importante, perché guidare drogati non è il massimo. Diciamo poi, così. Ognuno fa quello che vuole. No, perché no, stai in mezzo alla strada. Nel senso, ognuno fa quello che vuole a casa sua, finché non mi entri in macchina a 120 così. All'ora. Sì. Qualcuno dice dall'altro che Strazzullo è sexy. Io ho letto, penso sia un uomo. Harry B. Good è un uomo. Ah, grazie Harry B. Good. Un uomo dicono che tu sia sexy. Fiammetta sì. Scrive che è un friscone. Ah, molto bene, molto bene. Vai. No, tra l'altro la mia ragazza non è neanche tanto gelosa, soprattutto riguardo Fiammetta sicuramente no. Riguardo Harry B. Good probabilmente avrebbe qualcosa da ridire, perché comunque è un bel ragazzo. Non che Fiammetta non sia una bella ragazza. Qualcuno scrive però... a letto, Corrado è grande. Corrado è grande, è Nando. Ma la tua ragazza dice che a letto sei un grande. Metti un applauso subito. E intanto su quest'ultima dichiarazione 24 ascoltatori, signore e signore. 25, ma stiamo schizzando in alto. Un attimo solo, c'è leggiamo che c'è un messaggio da parte di Marek, che penso sia Marco Pedicini. Tu piuttosto rivelati, lurido anonimo. Lurido anonimo? Lurido anonimo. E dice, il 24esimo è Brillo, ci aggiungono. Benissimo. Ah, caro, ciao Brillo. Marek ci dice... forza Torello, i conduttori si schierino chiaramente. Purtroppo io sono un fan del Torello. Ricordiamo che come portiere del Torello ho preso 35 gol nelle ultime 6 partite. Direi che un'ottima media. E ricordiamo che 6x5 non fa 35 ma 30. Mi sembra che l'unico portiere a cui dovessi gol era Pizza Balla, portiere dell'Atalanta dell'82. Sì, assolutamente. Prima figurina Panini. E Marek dice son ghi perché cane. È perché lui è un po' così, un ragazzo di strada. È un ragazzo di strada. Guaglione di strada. Sì, che cosa dicevamo? Abbiamo il perso... fatto della patente. Sì, il fatto che della c'è patente. Il test. Bravo, tu sei uno molto bravo, Quindi c'è l'obbligo per prendere la patente, per le nuove patenti, di sottoporsi quindi, a questo 18 test. Quindi, 18enni che vi fumate le sigarette spiritose e fate uso di altre droghe, perché lo sappiamo che siete una banda di drogati. Sì. Non potete prendere la patente, fatevi 2-3 mesi di sana astinenza. Bevete tanto latte, si dice in questi casi. Sì, però questa cosa non mi piace, perché noi consigliamo di fare astinenza, poi quelli prendono la patente e poi continuano a drogarsi come Carlitos Way. Non puoi fermare la droga. La droga non... Cos'è? La droga è un po' come l'amore, non puoi fermare. Sarà molto felice il mondo intero a sapere che tu hai detto non puoi fermare la droga. No, nel senso, vabbè, ma che significa? Bisognerebbe fare un discorso troppo nel... Posso fare una cosa sempre bisogna di fare? Potrei avere un bicchiere d'acqua, per favore? Grazie. Ce la porta Fabio Milano. No, Antonella Lollicapulli. Che non è partito ancora il sondaggio, No, non è partito ancora il sondaggio. Evidentemente, Antonella, la gente ti vuole bene e non vuole che tu sia andato a fare in culo in diretta. Hai visto? Neanche io adesso mi porti l'acqua. Gentilissimo. Sai, è vero che se parli così nessuno ti riesce a sentire? Perfetto. Ma è frizzante, cazzo! Non è vero. Sto scherzando, mi divertivo così. Fiammetta dice che l'importante è vedere Strazzullo. Fiammetta. Grazie, Fiammetta. Fiammetta, salutiamola. Grazie. Allora, per favore, passiamo avanti al posto di leggere. Salutiamo tutti quanti, però andiamo, Certo, andiamo avanti, fluidi. La notizia è sempre tua, vedo che tu sei molto attento. La notizia è sempre tua. Ah, la notizia è mia. Sì. Ma leggevo 27 ascoltatori, mi viene la lacrimuccia. Ragazzi, ma 27 sono troppi. Qualcuno esca dalla chat. No, ma che cazzo dici? Notizia dai, ancora notizia. Mia. Incidenti post derby. E che è successo attenzione, domenica? Attenzione, incidenti. Che è successo allora, domenica? Sai che c'è stato il derby, no? Il derby romano, come no? Allora, e i lupacchiotti romani contro l'Aquila si laziale. Si sono dati una marea di mazzate. Guerra civile come l'Uganda. Prima che cominciasse la partita. Cioè si sono proprio cravagnati sì, di botte. Sì, ma anche durante. Sulle durante tribune. E poi c'è stato il momento in cui Totti ha fatto così, il gesto del morituri sì, praticamente sì. Che io in un certo senso ho apprezzato, perché lui in questo modo ha voluto anche diciamo innalzarsi a capo. Sì, ma secondo me si fa. Io non sono contro Totti, a guardia imperiale della Roma. Non mi è dispiaciuto. Se non sei romano non lo puoi capire. Sì. Perché a me molti amici romani mi hanno detto questo. Sì, loro tu non puoi capire che succede se vince lo scudetto la Roma. Così mi ha detto un amico laziale. Io comunque rispondo a loro. Dico che la differenza fra uno che è abituato a vincere qualche scudetto e quindi che si sente male per uno scudetto vinto dalla Roma e un napoletano invece che non vede praticamente mai la possibilità di vincere lo scudetto, c'è la differenza, diciamo, che il napoletano allora, si è sta coppa bascio comunque, cioè si dà fuoco e si lancia. Da qua a 10 anni il Napoli vincesse lo scudetto, Napoli si trasferisce, cioè spostano Napoli da un'altra parte. Certo. Per la pazzia, il Vesuvio lo mettono al contrario, perché così per divertimento. Sì. Chiudono il golfo, facciamo un lago. Cioè, succede di tutto. Tolgono l'immondizia dalle strade. Questo già l'hanno fatto. Aspetta, un attimo in regia, aspettami un attimo. Già l'hanno fatto. Riccardo è sceso giù nel nostro piccolo Tugurio. Sono tornato. Eccomi, allora, vediamo come è uscita la scena. È uscita bene. Diciamo che il derby quindi è stato abbastanza violento. È successa una guerra civile tra romani e laziali. Una vergogna, perché questi non sono tifosi, io volevo dirlo perché io non li sopporto così. E mi dici un po' i numeri, cosa hanno trovato? Perché quello è divertente. Io non ci, sono stati 10 arresti. Perché non dico guerra civile tipo Uganda a caso. A caso. Per fare l'esempio grosso. Ci sono stati 10 arresti e c'è stato un vero arsenale sequestrato dentro un'auto. Allora, come hanno trovato quest'auto? Hanno visto un'auto da lontano e hanno detto: ma quell'antifurto, sai, il bloccasterzo? Il brindosterzo. La pentola a pressione sopra. Mi sembra quasi un bastone. Andiamo a vedere. Hanno aperto la macchina. La pagina dietro, prego. Hanno aperto la macchina e dentro una sacca. Qua, all'interno dell'auto, dillo bene. C'erano decine di coltelli, mazze, martelli, accette, guanti, seghe e abiti. Ma che dovete fare? Invadere l'impero austro-ungarico con questa roba? Che dovete fare? Siete gli unni. Che dovete fare? Mandate ostrogoti. La violenza non è mai buona. Ma dove sono finiti i vecchi schiaffoni? Ma sì, quattro pacchere e finisce lì. I ma vecchi io leggo schiaffoni qua. Accette. Le accette. Cioè, ma che cosa dobbiamo fare? Ma tu veramente, tu tifoso, caro tifoso laziale romanista, ma tu hai veramente il coraggio di prendere un'accetta e lanciarla come un tomahawk indiano addosso a qualcuno? Ma non oso immaginare che cosa volevano farci con i guanti. I guanti. Mentre bevo, non mi dire queste cose. 29 ascoltatori, stiamo per arrivare a 30. Grande. Dateci una mano. A 30 Strazzulo si denuda in radio. Si denuda in radio e appena superati i 30 ascoltatori, qualche fortunato, il trentesimo, potrebbe vincere un invito ad uscire con Antonella Pulli, signori. Anche, se siete uomini, Antonella Pulli. Vediamo se scrivono qualcosa di interessante. 10 diffide, ci dicono 10 arresti con 10 diffide. Ma stiamo parlando comunque di qualcuno di... scrive lame agli infami, ma io so chi è. Coraggio e cazzotti. Noi sappiamo chi è. È qualcuno che, diciamo, ha una certa filosofia dello stadio. Sì, vabbè, dai. Però gioca su questa cosa perché non ce lo vedo con un'ascia in mano. Marek dice che adesso per il trentesimo spettatore fa entrare in chat il suo cane. Prego, se il tuo cane Antonella non ha problemi, no. Annuisce. Ci spingiamo verso la zoofilia, però non abbiamo problemi, non ti preoccupare. Annuisce. Dice Jenny, Im caga sotto con le asce. Mi sembra giusto, Jenny. Tu stai allo stadio, fuori lo stadio, ti trovi di fronte un indiano, un capo indiano con un tomahawk. Sì, che fai? È brutto. Fuggi. È brutto. Fuggi subito. Allora, la notizia parla sempre di stadio, ne parlo io, perché tu non sei mai attento, non leggi una lavagna grossa. Abbiamo una lavagna enorme così, e siamo dei professionisti ormai, e questo trentesimo vuole entrare o no? Dai! La notizia di adesso farà parlare del trentesimo. Chi prende il fiocco vince un giro in omaggio. Bravo, vinciamo un giro in omaggio con chi? Con te o con Antonella Pulli? Con Antonella Pulli. Ah, ok, Antonella sarà felice di questa cosa. Antonella annuisce, noi più parliamo... E sono 30, signori! Applauso subito! Numero 30, palesiti! Numero 30, palesati! Numero 30, chi sei? Chi sei? Ma stai facendo una seduta spiritica. È entrato. Chi sei? Chi sei? Niente, giro di regalo, qualcuno vuole? Sì, ho capito, 30, tutti quanti, ma il numero 30, dica chi è. Fiammetta. È la sorella di Fe. No, io, ma qualcuno, nessuno... Ormai tutti quanti scrivono io. Tutti quanti. Peppe Box vince. Peppe Box vince un giro con Antonella Pulli. Complimenti, finito con l'applauso nel momento giusto. Sei pregato, Peppe Box. Sei pregato, di Peppe lasciare Box. Le tue numeri, di lasciare i tuoi numeri alla redazione. E così noi ti faremo contattare da Antonella per una bellissima serata a te, soddisfacente. Tra così ci organizziamo. Abbiamo appena parlato della pillola, quella così, che si chiama sottomanino russo. Antonella ne ha una in omaggio. Sì, ma Peppe Box non penso che ne abbia bisogno. Perché ma Peppe lui, Box, per lei. Peppe Box è abbastanza un torello, si vede proprio dall'atteggiamento. E quindi Peppe Box passerà con Antonella. E la prossima settimana Antonella verrà qua per dirci com'è. Che ci scrivano qualcosa. L'applauso al Nick colorato di Fiammetta. Ah sì, Fiammetta, devi sempre farti distinguere. Sempre. Sì. Sempre. Tutta rosa. Ma vabbè, è buona sta Pulli. Dicono l'hai vista prima. Se non ci segui attentamente non puoi sapere. Bravo. Tra l'altro Brillo ci dice: comunque su Rai 2 c'è la Carfagna, sono molto combattuto. Brillo. La Carfagna è una bella donna, non so cosa faccia nella vita, però è molto bella. Cosa fa nella vita? potremmo mimarlo, però evitiamo. Evitiamo, andiamo, siamo avanti. In televisione. Andiamo però, avanti. Senza televisione potremmo anche mimarlo. Sta però sempre a me oppure... No, sta a me. Sempre di stadio violenza, soprattutto lo stadio come luogo di qualsiasi tipo di delinquenza. Sì. Che succede? Allora, allo stadio Arechi di Salerno c'è la buvette. Sai, la buvette sarebbe dove si vengono venduti i caffè, il caffè Borghetti, un classico. Sì, Borghetti. Borghetti. Coca-Cola aranciata, acqua, bere. Bravo, lo stadio. Lo stadio Panacea. E che succede? Hanno arrestato il titolare di questa buvette, non dirò il nome, A e C, le due iniziali. Perché? Perché era specializzato anche nello spaccio di droga. Sì. Quindi lui faceva: cosa vuole? Un borghetto? Cosa vuole? È un caffè? Cosa vuole? Un chilo di hashish? Vai, tieni, vai, forza Salerno. Mi sembra giusto. Bravi, a Salerno sono bravi. Tu immagini, soprattutto perché fammelo dire, sono napoletano, ma per riuscire a vedere Salerno di sicuro devi drogarti, perché la squadra proprio... E qua io vorrei Jenny, il nostro amico, che avrà sicuramente una bella frase per il Salerno. Una bella news per il Salerno. Per favore Jenny, so che sei presente, una news per il Salerno, perché so che tu nell'ambiente te la senti. Peppe Box chiede dove si ritira, penso, Antonella Pulli. Guarda, Peppe, a casa te la mandiamo, se ci mandi così, sì. Facciamo così, noi te la spediamo. Penso si dovrà montarla questa ragazza, spedita in un pacco. Sì. Quindi noi la apriamo, la Bartolini. Te la montiamo tutti quanti lì in camera tua. Sì, come l'IKEA, te la montiamo davanti l'IKEA. A te. Te la montiamo davanti a te, facciamo così. Facciamo il test per vedere facciamo se funziona. Il test. Se funziona. Vediamo se manca qualche vitarella, perché se tutto comunque funziona. Una volta testato, andiamo così. Salutiamo il 32esimo Palesa di 32esimo, anche se ci hanno detto che sei Liliana Minucci, la sorella di Eleonora Minucci. Allora, io ho bisogno di una cosa, perché Jenny ha scritto le cose per Salerno. Aspetta, Jenny ha scritto... Oh, Lilia, scusami un attimo. Vai. Lilia, qua hanno detto che ti stai prendendo la patente. Ma hai fatto il test della droga? Non ti drogare, Lilia, che io li conosco i tuoi amichetti. Quelli si fanno una marea di canne, Lilia. Le sigarette spiritose. Allora, attenzione un secondo. Innanzitutto, il nostro amico Jenny ha scritto: Salernitano, tu non sei campano. Ok. E Salerno solo puzza sì, e conigli. Grazie, Jenny. Complimenti. Grazie, Jenny. John Locke ci scrive: questa radio è un po' troppo italiana, citando la serie Boris. Esatto. Io apprezzo, siamo un po' troppo italiani. Brillo dice: te la montiamo, non è proprio una locuzione, la locuzione più adatta. E noi diciamo sì, invece era proprio quella più adatta. Intendevamo dire esattamente quello che tu hai deciso di non fraintendere. Non hai frainteso, sei un bravo ragazzo con l'anima pulita. Noi intendevamo proprio montarla. Ragazzi, qua dobbiamo andare avanti col programma. Noi vi amiamo, però dobbiamo andare effettivamente. Io voglio che tu pari del momento. Un secondo, la prossima notizia, ho bisogno di una bella base musicale. Una DJ bella base. Base. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sparatorie, di pallettoni, di fuoco, fucili e fiamme, di pistole, Napoli on fire, di bullying, di il bullying big one a Pozzuoli, devastato da un regolamento di conti, un raid camorristico, Napoli violenta, al cinema. Ok. Che cosa è successo? Ogni tanto in questo bullying di Pozzuoli, ogni gente mascherata con qualche fucile e qualche pistola, così decide di entrare e di devastare completamente tutto. Perché? Per un problema di conflitti fra famiglie camorristiche. Ma va. Vabbè, perché che pensavi? Cos'era? Ma va. Un paio di scarpe date al bullying che non è una taglia giusta? Che pensavi? Ma uno split non riuscito? Oppure quelle ho visto qualcuno incazzarsi assai per uno split. Però non so se hai visto, perché praticamente le telecamere del bullying hanno ripreso tutto. Sì. E abbiamo visto scene terribili. Cioè, film di John Woo, come ricordavamo, mancavano solo le colombe, come tu mi una volta hai detto. Le colombe di John Woo che sono si alzano dappertutto. Se tu leggi sotto la colomba Made in John Woo, sono solo fatte da John Woo. Che certo, è successo? Certo. C'è questo video di queste sei persone che entrano, passamontagna e caschi in testa, e fanno di tutto: sparano ovunque, terrorizzando naturalmente gli astanti del bullying. Danno fuoco a una pista, cosa che ho sempre sognato di fare pure io. Quella pista liscia ha dato fuoco a una pista. Sì, il problema è che quando dai fuoco ad una pista e ci sei solo tu, magari è divertente. Il problema è se ci sono i bambini e stai sparando contro delle macchinette. Il problema dei è questo, perché è successo in un orario attivo del bullying. Ho visto scene di gente. Le scene sono violenza inaudita. Noi adesso ci scherziamo su, però effettivamente. Eh sì, perché sennò ci darebbe da piangere pensando che a uno va al bullying e può succedere questo. Siamo. Perché tu non puoi sapere quel bullying a chi è legato. Che siamo abbastanza che alla fine. Casino sotto. Tu vai al bullying, andiamo a farci due tiri a bullying. Certo, non te lo dirò mai perché non sono patito del bullying. Però tu immagina che poi ti ritrovi a succedere. Che succede questo? Napoli violenta, la sigla è perfetta ed è terribile. E noi con questa ultima notizia ci prendiamo una pausa. Attenzione, chiudiamo blocco musicale. Rimanete lì perché si è connesso qualcun altro. Allora, penso sia Alessandra Clemente. Un po' di cose. Penso sia Alessandra Clemente. Le chiese di John Woo. Allora, ragazzi, noi abbiamo bisogno di un aiuto. Allora, noi adesso stacchiamo e facciamo una piccola pausa e mandiamo della musica. Voi rimanete connessi, però, vi prego. Non facciamo che adesso mettiamo un po' di musica e voi ve ne andate. Perché è poi vero, rimanete. Torniamo, dai. Siete pochi. 5 minuti di tempo, torniamo, vi facciamo schiattare sotto alle risate perché abbiamo l'ospitone stasera. L'ospitone, Ascanio Mummolo. Ascanio torna. Ascanio è tornato spolvere, tra noi. Grande spolvere. E vedete, già si staccano. 32, eravate 35, perché ve ne andate? Rimanete con noi. Boh, che ne so, un servizio, un giro su YouPorn. Un giretto su YouPorn. Poi tornate però. Poi tornate. Mi raccomando. Un piccolo stacchetto musicale. Chi ascoltiamo? A dopo, ascoltiamo Antonio Raia come l'altra volta, che ha il progetto Spazio. Di teatro e musica. La musica si chiama Spazio. Spazio, a tra un po'. Ciao. Spazio per me, per il mio povero cuore, smontato, finito. In giro per l'Europa c'è un uomo che nudo cerca la sua anima. Lei è scappata via, aveva scoperto che lui era un uomo sincero. Rieccoci qua, abbiamo appena sentito Antonio Raia che qualcuno non ha apprezzato, abbiamo letto. No. Vabbè, non può piacere a tutti, voglio solo un po' di spazio. Qualcuno ripete la canzone che diventerà secondo me il tormentone della settimana e soprattutto di Radio 2010. Voglio solo un po' di spazio. Siamo a 29, qualcuno se n'è andato. Qualcuno io sarà, l'ho detto. Sarà ancora là su questi. Dovete siti. Rimanere qui con noi. Vabbè, però. Vabbè, lasciamo così, va bene. Allora, io voglio dire. Scusatemi se bevo, Sì, scusate se fumo. Vabbè, dai, siamo in una radio libera, dai, lasciateci bere e lasciateci fumare. Allora, voglio dire che adesso è il momento torna la grande, in auge, più carico che mai, Ascanio Mummolo. Ormai lo sappiamo. Allora, per chi non seguisse tanto la nostra radio, Ascanio Mummolo è un imprenditore milanese. Ascanio Mummolo è un imprenditore milanese che sta cambiando l'Italia con le sue idee rivoluzionarie e anche un po' folli. Però i folli sono così. Genialità e follia. Non lo inquadriamo perché lui non ama essere inquadrato. No, perché lui è un personaggio importante, non vuole essere scocciato. Ok, ci siamo, state per ascoltare l'imprenditore del nuovo millennio. Sì. Tenetevi alle sedie, perché lui arriva e fa tremare tutto. Rimanete seduti. È peggio della nuvole cenere in islandese. Esatto. Viva Mummolo, viva Mummolo. Perfetto. Allora, ci siamo? Ci siamo, Mi ci siamo? Che con te ha un rapporto un poco... Sì, ma ho imparato ad apprezzarlo ultimamente. Ascanio, come stai? Buonasera. Eccolo qua. Con la sua voce un po' la Fausto Leali. Sì, anche un po' alla Ruggeri. Alla Ruggeri pure. Sì, sì, alla Ruggito. È simpatico. È una simpatica canaglia, un Ascanio, monello. Come andiamo? Come stai? Un sacco di tempo non mi vedo. Un po'. Hai avuto da fare? Sì. Tu che hai fatto? Sei andato a Casablanca? No, non sono più andato a fare... Oh, se ti servono i soldi, te li presto no, io. No, lo so. Tranquillo, basta chiedere. È un grande amico. Sì, lui ti stima tantissimo. Mummolo aiuta anche quelli come te, pensa un po'. Sì. È vicino al mondo omosessuale. Faccio un sacco di cose per socialmente utili. Guarda, tu sei socialmente utile, Alessio. Bene. Il tuo bene. Taglio, diciamo così. Allora, noi vogliamo fare qualche domanda d'attualità per sapere cosa ne pensi. Certo, prego. Allora, la prima che vogliamo dire: lei ha saputo che John Elkann ha preso il posto alla Fiat? Pronto? Com'è? Ma attento, sempre distratto. Scusa, ma è un sacco di impegno, prosegui solo. Vabbè, sta qua con noi. Un secondo solo, mi hanno portato un attimo. Allora. Va bene, che cosa è successo? Allora, aspetta un attimo. Ma c'ha la segretaria? Che cazzo vuoi? Vattene via. Alla segretaria qua, in diretta, è piacevole. Intanto aspetta, ci salutano, qualcuno va a cacciare cinghiali a cercare cocchi. Così dicono. Ma dov'è? Sull'isola? Sull'isola dei famosi? Sì, no, è sull'isola di Lost, penso. Sull'isola di Lost? Ah, vabbè, Lost, io non sono mai riuscito a vedere Lost. Perché è troppo incasinato, è un beautiful sull'isola, è un bordello. Ascanio, ci sei, Ascanio? Sì, scusate, che qua non si capisce un cazzo. Ma che cazzo mi pago a fare, gente di merda? Tu, vatti a sedere. Non venire mai più vicino a me così. Ascanio se la prende... Sta parlando con... Allora, Ascanio se la prende anche con le nostre due belle donne. Io devo qua. Dire la verità, io non vi seguo tanto. Per il semplice motivo che voi mettete della musica di sottofondo di merda. Sì, è roba vecchia, bella. È Benny Goodman. Sì, vabbè. Un classico. Vabbè, adesso di casa, Benny Goodman. Cioè, chi è? Che faceva? Come chi è? Suonava il clarinetto. Che bello, che suoni la chitarra. Se vuole togliamo la musica. Ma sarebbe meglio. Ok, togliamo. Musica, per cortesia, regia, togliamo la musica. Lui vuole parlare senza suona musica. Suona il piffero. Ok. Lei suona il piffero? No, Benny Goodman. Ah, Benny Goodman. Era un suo amico, suonava il piffero. No. Parliamo di cose serie. Allora, di cose serie. Lei ha saputo sicuramente, sì, che nel mondo dell'industria queste voci corrono subito, che John Elkann, sì, ha preso il posto di Luca Cordero di Montezemolo, sì, e non è andato questo posto di presidente della Fiat all'Apo. Sì. Lei cosa ne pensa? Che l'Apo è frocio. Perché è frocio? Vabbè, ha avuto quella disavventura con i suoi amici e l'hanno trovato un po' così. Comunque non è in grado di gestire un'azienda, è un cocainomane, si tira lo stucco da sopra le pareti, non è normale, dai. Questa cosa è pericolosissima. Non è normale. Quindi saltiamo alla domanda a lei, che cosa ne pensa di l'Apo? L'ho detto male. Non lo stima. Eppure lui è uno di quelli che diceva che avrebbe cambiato l'economia italiana, un nuovo tipo di manager. Parliamo dal presupposto che anche lui non sa parlare. No, quello è vero. Abbiamo tutto il bisogno di Pepe. Che cazzo pare, sei un cretino. E cosa ne pensa degli occhiali che sono concetti? Proponibili. Concetti. Proprio. I concetti, sì. Che cazzo di concetto è? Porta quel concetto davanti a una persona, vedi che cazzo ti dice. Io ho un concetto, quale? Gli occhiali? Ma vedi il culo, ma che cazzo dice? Concetto di occhiali. Vedo che c'è stima fra i due. C'è molta stima. C'è un buco di... così. E invece lui arriva, figlio d'Agnelli. Sì, figlio d'Agnelli. Ricordiamo figlio che lei non pecora, è... sei una pecora, non sei un Agnelli. Mentre lei invece ricordiamo che è il... Il grande. Ah, io sono il cane madre. Il cane madre. Voi dovete tutti apprendere dalle mie... Allora, io so di più di voi. Ecco, ricordiamo che lei si è fatto da solo, non come Elkann, che era nipote Gianni Agnelli. Sì. Lei, suo padre e sua madre, cosa facevano? Mio padre e mia madre un cazzo. E adesso lavorano per me. Ecco, bravo. Ricordiamo, bravo. I genitori. Da quando avevo 15 anni. Da, i genitori vivono in uno dei suoi alberghi e lavorano per lui. Lavorano, certo, per lui. Certo, da quando tengono, certo, 15 anni. 15 anni. C'è Schirru, c'è Schirru. Ciao Schirru. Ciao Schirru. Che cazzo volete? Oh, no, no, no, no, no, non era per lei, era per gli ascoltatori. Ah, vabbè. Chi allora, Schirru dice che anche Elkan si è fatto da solo, sì, credo. Sì, ma l'hanno anche fatto. Si è anche aiutato a farsi fare. Molto, moltissimo. Prima di passare alle domande che sicuramente faranno a proposito, chiediamo se qualcuno vuole fare qualche domanda. Andate piano, andate una piano alla volta, noi che concludiamo le nostre discussioni con lui e poi concludiamo con le vostre, sì, domande. Ascania! Perché chiama sua moglie? Facci i fatti suoi. Facci i fatti suoi. Ascania! Il tuo cane di merda ha cagato! Ah, ma lei ha un cane? Esce. Lei ha un cane. Non è mio, è di Ascania. E come si chiama? Rintontin. Rintontin. Perché Rintontin? Perché è un cane cinese. Ah, uno di quelli. Sì, non ha fantasia, mia moglie. Pensavo fosse un cane rincoglionito. Perché Rintontin. Io l'avrei chiamato Ascan Wolf. Ascan Wolf, capito? Il lupo ascanio. Va bene, voglio chiedere una cosa. A parte questa domanda, quindi lei cosa ne pensa dell'ambiente automobilistico? Lei si è mai lanciato in questa industria? Guardi, io sto in mezzo a un paio di situazioni. Ho iniziato a creare delle macchine eco-ecologiche, eco-incentive, eco-statali. No, ecologiche va bene. Eco-incentive, non so cosa voglio dire. No, eco-statali, infatti, non so neanche. Sono delle macchine eco. Macchina. No, non faccio il cretino. Ho a che fare proprio con i deficienti, Dio santo. Mi dica un po', come si chiama? Come si chiama fastidio la macchina? Come si chiama la macchina che lei ha creato? La macchina. Sì, aspetta, sì, leggiamo anche noi. Grazie, Antonella. Grazie, Antonella. Scusate, cioè, sto parlando. Sono le nostre collaboratrici. Ah, che se ne frega, la danno. Se la danno, allora bene. Se non la danno, se andassero andiamo a avanti, culo. Andiamo non avanti, diciamo andiamo queste cose che sono cose interne allo staff. Sì, vabbè, fatti vostri. Allora, no, la macchina è molto carina. Come si chiama? Bolla. Bolla. E che cosa, che caratteristiche ha questa bolla? È una palla. È una palla? Sì, sì. È una macchina a forma sferica? Sì, sì. Ma l'antivento? No, non si frega, non ha neanche le ruote, rotola. Ah, rotola. È un nuovo tipo di macchina. Tipo i criceti. E in salita come fa? No, in salita ti freghi. Ah, sì, sì. Sono in strade pianeggianti, sì, questa macchina l'abbiamo creata per gente che ha molti soldi. Se hai bisogno di salire, tipo chiami la Mumol Enterprises. Mumol Enterprises? Viene, ti attacca dietro, con la pollina e ti tira sopra. Ah, ecco, capito, c'è anche un servizio. Quella linea di massima è stata creata per strade pianeggianti. Ah, io però voglio leggere una domanda perché sì, è interessante. Ci chiede RB Good, cosa ne pensa della Fiat Duna? E del Doblò. E del Doblò. Cominciamo la Fiat Duna. Alla luce di questa sua nuova invenzione, cioè la Fiat Bolla. Allora, la Fiat, la Scanio Bolla. La Scanio Bolla, la Mummolo Bolla. Il progetto è ancora un concept, diciamo così, quindi sta ancora in sviluppo. È un concetto. Anche il nome. È un concetto. Sì, però sono gli occhiali di merda, perché non puoi presentare un concetto di occhiali. Sì, mi sembra giusto. Però poi dice, perché l'hanno scoperto con il trans? Vaffanculo, sei un coglione. Era un concetto anche lì, stava cercando... Scusate, quando glielo mettevano nel culo, che ha detto? Oh, non è come sembra, è un concetto. Sì. Cercava un concetto, per ha trovato... favore, manteniamo la calma. Cercava un concetto, ha trovato una supposizione. Per diciamo favore, così. Manteniamo, ecco, manteniamo la calma, signor allora. Mummolo, lei è troppo volgare. Allora, sì, sì, cosa ne pensa della Duna? La Duna è una brutta macchina. Beh, mi sembra ovvio, la più brutta in assoluto. Sì, sì, vai. Peggio la Duna o peggio lo Blò? La Doblò, scusi. La Doblò, non lo so, già il fatto che sembra un nome di uno snack. Ah, allora, Alessandra Clemente ci dice che la trans si chiama Patrizia, come sua mamma, aggiunge. Brava, grazie per l'informazione. Ma allora è tua mamma o è tuo padre? No, no, non è la trans, non è la madre, è un'omonimia. La madre di questa spettatrice si chiama Patrizia, come la trans, che in verità si chiamerà, che ne so, Sergio. Ah, ho Gino. Capito, è una cosa di... ho capito. No, niente virgolette. Quindi non diciamo che no, è la no. mamma, slash padre, diciamo che è un'omonimia, sì, sì. No, no, no. Sì, sta... sì. Ma basta... ti siamo tutti vicini. Per favore, sì, basta parlare di Lapo che va trans. Sì. Ma lei non è mai andata a trans. Ma che stiamo scherzando? Ah, vabbè, io vedo, perché nel mondo dove ci sono i soldi... può, genere, capitare, può capitare, può capitare. Samarrazzo. Lasciamo stare, per favore. Vabbè, però il trans tira, diciamo. Prossima così. Domanda. Prossima domanda. Prossima domanda, velocissima. Appunto, allora, perché tira è andato con la signor Mummolo, la ascoltimi, signor Mummolo, signor Mummolo. Sì. Allora, ci dica. Lei saprà che la situazione si è fatta scottante sul rapporto tra Fini e Berlusconi. Sì. Oggi un importante giornale nato da poco il post, molto importante. Come fai? Sei nato da poco ed è importante. È importante perché è gestito. Io sono l'importante. Sì, signor, si calmi. Gestito da persone molto. Gestito da persone molto importanti. Vestito. Gestito. Ah, ah, ok. Sì, sì, bene, certo. Titolavano in questo modo. Sì, certo. Finalmente iniziano a darsele sul serio. Sì. Berlusconi e Fini iniziano ad avere molti problemi. Sì. Berlusconi ha accusato Fini di aver detto che non credeva nel progetto del Popolo della Libertà. Sì. Fini rideva seduto e lo mandava anche un po' a quel paese. Sì, che cosa fare? Pensa di tutta la situazione lei? Ma io dico che si sta spaccando un po'. Secondo me. Non so se vanno da un buon divorzista, riescono a... Ma no, non sono sposati. Lei per chi parteggia in tutto questo? Fini o Berlusconi? Io parteggio per me stesso. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Da uomo politico. Ovviamente a Bernardo Ciociaria, che ha mia piena fiducia. Ricordiamo. Ricordiamo Bernardo Ciociaria. Che la prossima volta chiameremo. Sì, grande, sì. Grande Ciociaria, grande. Salutiamolo. Insieme l'Italia. E allora Ciociaria. Cosa... Ciociaria. Allora voglio chiedere una cosa. Tanto le informiamo che abbiamo 29 spettatori... Che dopo le faranno qualche domanda sicuramente. Paganti? No, che paganti? No, paganti. Sì, siete dei cretini, bro. Facciamo cultura, non sì, facciamo cultura. Stavo bevendo. È della parte di donna che esce lui. Ogni tanto. Sono gli estrogeni, sì, che dentro, sì, di lui, sì, si ribellano. Sì, sì. Allora, o ti fai una cura completa per un mese. Ma tu hai un problema qua il pomo d'Adamo? Perché no, è strano che tu abbia. Il pomo d'Adamo. Lo sai che te lo dovresti levare, perché quando diventa le donne è brutto. Dai, andiamo avanti. No, io dico un consiglio. Andiamo avanti. Da allora. Amico. Domanda... Ah no, qualcuno dice spettatori pagati, pagati, non è vero, non li paghiamo. Giustamente. No, no. Prossima domanda, lei tiene per l'Inter, abbiamo detto un po' di trasmissioni fa. Sì, lei teneva, sì, per l'Inter. Sì. Bene. Simpatizzante. C'è, sì, il caso, si è aperto un altro, il caso con Balotelli. Col talento Balotelli, sì, sì. Super Mario Balotelli. Che cosa ne pensa lei che è interista? Che effetto le ha fatto quella maglia lanciata in quel modo? Tra l'altro io degli scoop, ho letto stamattina sul giornale che è successo di tutto. Ma ha detto, sì, che, sì, Materazzi voleva uccidere. Senta, vuole rispondere lei? Ma no. Cioè io me ne vado. Le sto non dando, c'è problema, le ho altri fatti da fare. Le sto dando più informazioni per poter rispondere. Allora, diciamo cosa è successo. Magari qualche spettatore non lo sa. Sì. È successo che Materazzi dopo Balotelli dopo la partita Inter-Barcellona vinta dall'Inter 3-1, complimenti all'Inter, lui era stato un po' fischiato, giustamente secondo me, perché tutti quanti dell'Inter gli stavano lanciando. Ma non è vero, là c'è stato tutto uno sbaglio, e la gente da lontano, quella partita, la gente si pensava di aver visto quello che vendeva le noccioline, allora lo fischiava. Ma no, hanno fischiato. Razzista. Infatti, non so, Balotelli nero ma italiano. L'hanno fischiato. È nero metallizzato. No, quindi è più potente. L'hanno fischiato. Hanno pagato un po' di più per la vernice. No, l'hanno fischiato perché tutti quanti davano il cuore, sì, in quella partita. Lui è entrato giochicchiando. No. È entrato giochicchiando. È entrato giochicchiando. Mi faccia parlare. È entrato a me. Ma che? Mi faccia parlare. Sì. Vabbè, qua siamo nel ridicolo. Anche la scorreggia finta. Comunque, abbiamo l'hanno toccato fischiato perché lui giochicchiava fondo. E lui a fine partita ha lanciato la maglietta. Ci sono stati scontri negli spogliatoi. Ma lui l'ha fatto per il pubblico, la voleva dare. Ma no, si è letto il labiale, mandava a quel paese il pubblico. Signor, no, mandava a quel paese lei, non l'ha letto ma bene. No, come me. Ma può mandare a fanculo. Vaffanculo Riccardo Cremona. Ma non è vero. Allora, signor Mummolo, noi qua siamo in chiusura. Allora, chiediamo, mi hanno chiuso. Chiediamo se ci sono delle persone domani, in chat che vogliono farle delle domande. Qualche domanda. Attendiamo allora, un attimo. Qualcuno in chat vuole fare delle domande? È il momento per farlo. Stiamo per chiudere. Adesso siate veloci, celeri. Qualche domanda a Mummolo. Sì, anche perché devo andare in riunione, diciamo così. A proposito, la prossima volta vorrei che lei ci prendesse un appuntamento con Bernardo, perché scusate, noi... chiamatelo voi, Dio santo, Allora, teniamo... C'è Harry Bigood che fa una domanda. Ok, Ascanio. Okay, Ascanio. Sì. Vuoi sposare la Clemente? Chi è la Clemente? Io già sono sposato con Ascania. Già sposato Ascania, quindi, mi dispiace. No, per ora... Tra l'altro la Clemente dovrebbe cambiare nome in Ascania pure lei. Anche lei, perché Clemente, non so se... Che nome di merda, Clemente. No, no. Clemente è il cognome, Alessandra è il nome. Si chiama il cognome? Perché tutti la chiamano così, si porta sì, un po'. Sì, sì, come quando stai in questura. Come ti chiami, Strazzullo, Alessio? Lei c'è stato spesso, vero? No, ma lei... Mi sono venuta a prendere con il furgone cellulare, vero? Allora, Nando chiede... Vorrei chiedere ad Ascania se è disponibile ad un incontro a tre. A tre con chi, Nando? Con chi, Nando, con chi? Cioè, lei, Nando, Ascania e poi... Scusate, sono anch'io qui, eh. No, stiamo cercando di informare, che Nando vuole fare una cosa a tre. Lei vuole sapere chi sono le persone che si trova in questa una situazione? Una briscola. Ah, penso... No, a tre, un ménage à trois. Un comunque. A sorpresa, hanno detto, a sorpresa. Un ménage à trois. A sorpresa. Ma che cazzo state dicendo? Non vi capisco. Il ménage à trois è fare sesso in tre. Io conosco il tedesco, quindi no. Non stiamo qui a parlare. È francese. E vuol dire fare sesso. Chi è francese? No, la parola. Ma chi? Ménage à trois. Ah. Vuol dire fare sesso in tre. Io so che romano menare. No, vabbè, basta, io non ho parole. Vuole fare sesso. Allora, un nostro spettatore ci chiede se lei vuole fare sesso a tre. Con lei e un'altra persona a sorpresa. Oh, guardi, in questo momento sono molto impegnato. A fare sesso con qualcun altro. No, in generale sono una persona molto impegnata. Quindi lei non è favorevole a questo sesso a tre. Il ménage à trois. No, non sono favorevole. Ha detto ritiro la domanda. Subito, offesa. Subito si offesa. L'ha scritto in grande. Si è offesa, lei ha offeso il nostro spettatore. Ma che cazzo se ne fotte. Bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Beh, se non ci sono altre domande, noi lo salutiamo. Lo salutiamo. È stato un piacere parlare con lei. La prossima volta vogliamo parlare anche con Bernardo Cesari. No, ah, cioè, c'è una domanda, c'è una domanda. Un attimo. Jenny chiede a Scanio. Jenny Scanio, sì. Vieni a fumare con me. Lei usa droghe, fa no, uso di droghe. No, già ne abbiamo parlato, io solo brandy. Solo brandy. Jenny, se vuoi un brandy, prendi appuntamento, dacci il numero, noi diamo un appuntamento. E ricordate che il futuro dell'Italia è Ascanio. Non abbiamo dubbi. Ascanio for president, qualcuno scrive. Peppe grazie. Box. Grazie, Peppe grazie. Box, che tra l'altro ricordiamo è il vincitore del torneo, prendilo Antonella Pulli pure tu. Sì. Sì, hai capito, Antonella Pulli, ma chi è? Antonella Pulli è il nostro staff. Ragazza? Sì. Allora Box, menatela. Menatela in che senso? Niente, ha capito lui. Mena, nel senso di picchiare, no, Romano. Menatela, cioè. Viva Mummolo, dice Giusina. Giusina, solo per curiosità, sei la Giusy che credo che tu sia? Sì, vabbè, posso andare. Non conosco no, un attimo solo. Che palle. Vabbè, ma lei non faccia così però. Lei sta alla radio, le facciamo anche pubblicità. Sì, sì. Ale, dice Alessandra, levare la pasta. Alessandra Clemente dice che è gelosa. Ma attenzione, ma possiamo dire una cosa, quindi Ascanio Mola ha fatto colpo sulle nostre telespettatrici. Sì, ragazzi, Ascanio tira un fotio, cioè, allora, Giusy, quindi è lei, un'amica. Sì, la sorella di Rossella. Ah, la sorella di Rossella, salutiamo Giusy. Medico, medico. Medico? Un medico sì, in famiglia medico. Fa sempre bene. Certo. Io lo dico per lei, è così più facile le operazioni di... Va bene, basta. Passaggio da un sesso. La salutiamo. Dottora, non dottoressa. Dottora. Lei come si dice? Vabbè. Dottoressa o dottora? Eh? Come si dice? Dottoressa o dottora? Io dico senti, mi fa male questo. Ah, perché... senti. Ah, ok, senti. Lei non da manco del lei. Lei non chiama una dottoressa, dice senti. Sì, sì, scusa. Oppure sai. Scusa, sì. Quell'uomo? Allora, va bene così. Allora, grazie sì. Mille. La chiameremo la prossima volta perché lei è certo, tornato alla certo. Grande. Complimenti. Certo. E la salutiamo, buon lavoro, qualsiasi cosa lei dovrà fare, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, Ascania. E ho finito con questi coglioni di merda. Ok, ci voleva siamo. La cosa finale. Che uomo raffinato, finito. Qualcuno scrive. Sì, lui è molto raffinato, molto raffinato. Noi siamo molto contenti. Siamo molto contenti perché questo secondo live è andato alla grande. Siamo è andato migliorati. Alla grande. Salutiamo. Salutiamo tutti. Allora, salutiamo Alessandra Clemente, Anzone che non so chi sia, non si è palesato. Jenny, Fiammetta, Giusy, un bacio, Giusy. Non so chi sia Harry B. Good, Enrico Buono l'abbiamo detto prima. Marek, Nando, Fernanda. Peppe Box, mitico vincitore. Ti manderemo Antonella al più presto. Riccio, sì. Salutiamo Schirru. Schirru. La sorella di Eleonora. Ricordiamola. Poi salutiamo anche Piera e Brillo. Che purtroppo come a vedere l'host. Steve e Zora. E anche tutti quelli che ci hanno seguito e poi se ne sono andati. Noi siamo in chiusura. È stato un piacere parlare con voi in diretta in prima serata. Un po' come Raffaella Carrà. Tu ti senti un po' Raffaella Carrà? Sono le 10:05. Tra l'altro, io so che Raffaella. Ah, sì. Sì, aspetta, lo staff lo salutiamo dopo, non siate scocciati. Allora salutiamo lo staff in studio, le nostre signorine, le il nostre premio. Bellissime signorine. Allora, una è il premio, Antonella Loli Capulli. Un saluto. L'altra è Eleonora Minucci, la factotum, un applauso. Quando ho chiesto l'acqua lei me l'ha data, anzi il fidanzato però vabbè, là. Un altro applauso a Fabio Milano, l'uomo dell'anno, Fabio Milano e salutiamo il nostro amico DJ. Ciao DJ, arrivederci. Buonasera! Il grande lui è DJ Gianni Corrado. Mitico DJ Corrado. E niente, da Riccardo Cremona e Alessio Strazzullo è tutto. Da Radio 2010 tutta. Mi state allo stivale, siate curiosi. Ciao. Dieci.